Letture di Radio 24. Che cosa sarebbe successo se Cristoforo Colombo non avesse scoperto l'America? O se Hitler fosse morto da piccolo? La storia può essere concepita come una materia rigida e basta un piccolo gesto per cambiare tutta la configurazione. Come scrive Ermanno Cavazzoni in un articolo pubblicato oggi sul domenicale del Sole 24 Ore. Cosa sarebbe accaduto se Hitler fosse morto da piccolo? O anche solo se fosse stato afono o muto? E se Mussolini fosse caduto giù dal balcone di Palazzo Venezia e fosse rimasto un po' scemo? Se Gesù Cristo fosse stato ateo convinto e mangiapreti? O non lo avessero messo in croce e fosse vissuto a Gerusalemme fino a 90 anni, morendo di una complicazione polmonare? Se il 3 aprile del 1917 Stalin fosse finito sotto il treno che portava Lenin a Pietroburgo? E se Lenin, gridando a Stalin di spostarsi, fosse finito anche lui sotto il treno? Eccetera, eccetera. È bellissima la storia controfattuale, fatta di sé ipotetici. Gli storici si sentono offesi e non la ammettono. La storia la si può concepire in maniera rigida e in tal caso ogni mio atto, anche minimo, può avere ripercussioni enormi nel tempo e nello spazio, come se il mondo fosse fatto di palle da biliardo. Basta un piccolo gesto che muta una traiettoria e tutta la configurazione di conseguenza cambia. È un mondo angosciante, pieno di personale responsabilità, dove tutto è vincolato in un meccanismo spaventoso e inderogabile. In una storia così non ci sarebbe posto per la letteratura. Alessandro Manzoni, quando inventa Renzo e Lucia e Don Abbondio, la monaca di Monza, Don Rodrigo, eccetera, introduce nel secolo XVII tra Lecco e Milano degli elementi che non sono mai esistiti. Anche se sono personaggi umili in un sistema storico rigido, di sicuro degli effetti li avrebbero avuti. Ad esempio, l'innominato convertito dalle lacrime di Lucia, quale peso avrebbe poi avuto sul governo della Lombardia? La storia avrebbe forse preso una piega leggermente diversa, che col tempo si sarebbe amplificata e oggi, chissà, forse il Canton Ticino non era Svizzera, ma Italia. Quindi necessariamente uno scrittore che inventa deve concepire la storia come fosse di gomma. E se inventa dei personaggi e li infila a Milano, ad esempio in metropolitana all'ora di punta, la gente si pigerà un po' di più, ma un po' di spazio si trova sempre, perché il mondo fisico della finzione è elastico e quindi la storia generale non muta. Si può inventare un ministro o un primo ministro che ne combina di cotte e di crude. Si può inventare un reame e collocarlo tra gli stati esistenti, o un ducato di Parma, come ha fatto Stendhal, che però è diverso da quello esistito. Tutto viene riassorbito e reso compatibile col materiale spugnoso che è la storia. Si può perfino ipotizzare che Hitler ha vinto la guerra, ha unificato l'Europa in una Unione Europea, all'inizio con sistemi un po' brutali. Poi Hitler è invecchiato. Göring, grasso e pesante, non si è più alzato dal letto. Himmler è stato messo in campo di concentramento da Bormann e per un qui pro quo gasato. Goebbels, scappato con quella sua attricetta cecoslovacca. Tutti gli altri si sono rammolliti e pian piano si è arrivati all'Unione Europea esattamente così com'è adesso. Col marco al posto dell'euro, ma con la Germania che domina e sulla quale si misura lo spread e perfino una donna come cancelliere, eccetera. La storia è una colata spugnosa di gomma. Non sappiamo dove andrà, ma possiamo tirarla da una parte o dall'altra, che poi torna nell'alveo e segue il suo corso. Ma allora, se Cristoforo Colombo non avesse scoperto l'America, l'avrebbe scoperta un altro? Se i congiurati avessero sbagliato persona e non avessero ucciso Giulio Cesare, l'impero sarebbe sorto 15 anni prima. Tornando a Hitler, se Hitler fosse morto da piccolo, c'era un altro Hitler che lo sostituiva? In quell'epoca c'erano in giro un certo numero di possibili Hitler che si sarebbero fatti avanti al posto di quello vero. Ma se il vero era morto da piccolo, diventava vero il suo sostituto. E qui introduco un nuovo concetto, che i sostituti non sono identici, ma sono qualcosa di pressappoco e si dispongono in una scala di approssimazione, che va dal più somigliante al meno. Al punto tale che il meno somigliante poteva essere un bonaccione con due baffetti, che però si faceva trascinare nella Seconda Guerra Mondiale dalla casta militare prussiana. Sarebbe stato un Hitler di seconda categoria, ma se anche costui fosse ad esempio morto da piccolo, poteva esserci un Hitler di terza o quarta categoria. E si noti che lo stesso Hitler, quello effettivo che si studia a scuola, poteva a sua volta essere un Hitler subentrato a un altro morto da piccolo, il quale era l'autentico Hitler, con un altro nome, ma ancor più tremendo, che considerava razza inferiore anche i tedeschi, o superiore solo lui e altri due o tre suoi amici. Per cui sembra incredibile, ma dovremmo considerarci fortunati. Che cosa significa questo discorso? Che non si può affermare niente con certezza e che magari quella che crediamo realtà è una delle tante copie della realtà, ossia che la realtà è sempre qualcosa di pressappoco. Ma può capitare che il pressappoco si divarichi tanto che uno si trova a fare la vita di un altro. Ci fu un caso famoso, un muratore che aveva vinto una cifra enorme al totocalcio. Aveva avviato allora un'impresa edile con dei dipendenti, una cosa in grande, superiore a lui. Cioè, era entrato in una vita che non era la sua. Infatti, quando fallì, pieno di debiti, si buttò sotto il treno. La cifra vinta era enorme per lui. L'avesse vinta un miliardario. Restava più o meno un miliardario. E sotto il treno non si buttava. Lui doveva vincere quel che bastava a comprarsi un furgoncino, che un muratore col furgoncino è pressappoco come uno senza. Bisogna cioè temere i grandi sbalzi, cercare di non vincere al superenalotto, cercare di non trovare un tesoro, cercare di non avere grandi guadagni in borsa e quindi farsi consigliare dalla propria banca che consiglierà i propri fondi di investimento. Forse Hitler in realtà era un poveraccio, un caporale disoccupato con la vita già pronta che lo aspettava, pittore in bianchino o pittore decoratore o qualcosa di simile. Forse c'era già anche una moglie che sarebbe stata la moglie di Hitler. Una o un'altra su per giù era lo stesso. Dicono che probabilmente sarebbe stata una sua cugina, perché l'altra vita di Hitler, quella non fatta, i biografi l'hanno immaginata e descritta. Poi invece si è aperta casualmente una strada che sembrava l'arrivo di una grande fortuna, mentre invece era il suo precipizio. Era la vita di un altro. Chissà chi era quest'altro. I greci antichi lo chiamavano ubris, questo fenomeno. Non stare nei propri limiti. O pressappoco. E questo era un articolo di Ermanno Cavazzoni che trovate sull'inserto Domenica, in edicola oggi assieme al Sole 24 Ore. A scuola a 6 settimane. Avete sentito bene, non 6 anni. 6 settimane. È il limite minimo di età per i nuovi asili nido che apriranno dall'anno prossimo a New York, nelle zone più povere della città. Il primo a Brooklyn, nel quartiere di Brownsville. Ammessi neonati e bimbi dalle 6 settimane ai 5 anni. Non gli insegneremo la matematica, non vogliamo farne dei piccoli Einstein, ma ci sono elementi del comportamento, soprattutto nello stabilire le relazioni con gli altri, che possono essere appresi anche da chi ha poche settimane di vita, spiega il sindaco Michael Bloomberg. Come è facile immaginare, non è solo istruzione. Il nuovo istituto servirà soprattutto a intrattenere i neonati mentre i genitori sono al lavoro. Sembra un esperimento estremo, ma è stato già tentato con buoni risultati in altre 17 città americane, dopo un faticoso inizio a Chicago. L'iniziativa è municipale e i costi di gestione li pagano i contribuenti, mentre il progetto è gestito da una società no profit, che è sostenuta da miliardari filantropi come Bill Gates e Warren Buffett. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Massimo Gaggi All'asilo a 6 settimane, dal Magazine 7 del 5 ottobre.